La mort de la Gussona. Al me amis Ruston. Al prim vedet in sci, te set un umashot discret, car al merost, e per la purtinara ti te set l'om dispost. Ma per mi, già chi to man pien, chi to rut, lep, che te vien su quante parlet, chi bruscon, oh, chi bruscon su la mattina, chi de marche e chi bugnon, ah, per mi l'è già patenta. In chi slep che te paciotet, fera fera, quella carna fera dura, caro ti che te sassina, fuma più, da matrami, renda alcalina l'orina. Oh, ancomò un alter bugnon, vera, che te turmenta come un'anima in pena. Ah, chi che te gevet sul col e sulla scena, un alter te senta ca. Tremendo, sul preteret, ti te set, come la tua mamma. Un uricemic, ti, già, tu ti gan la sua, e mi, pover sacrament. Tas che un pelo in che e crepi, come un can, lì, per strada, u tossina bicucada, non ho vis più, tas che crepi, borli giò, criccio, tegnim. U perdu la tramontana, me saltà un sgaget piciana, u butta là un brush, bleh, bleh, bleh, tata, u butta là un brush a steam, e me son, e me son rancà a una mura, sì, dai, dai, alt, in gamba, fiei de cani, se me intopi, me se me ingrani, fiei, me scalden la fatura. La, le mort, le la mort, mammus, mammus, picalus, pica la porta, le la mort, mammus, ma morta, le la mort, che picalus. Oh, Ruston, fia de casera, la che punda, le per sfutum. Ma stem dur, che la scamotum, e che fen fa una pera. La tarocum, stagabota, la l'ensperfusiada mola, la vegiana, la mencola, strabifent denans del mota. E la va. Dormiva fors quan lo vista quella vaca, con la sua pedana straca, sluntanà giò per il curs, no dormiva un crist. Oh, giusta, sì, l'andava tendellas a tanti alter per i pias, per i strad a bat la frusta. L'uveduda, non se fala, l'uveduda de slunga lontan via, e curacà, curacà, cui tu gambi in spala, sare denter, a miara, ne tampina la vegialba. Se cammina, sprango, sara. Quan la rugulà la sciana, che svargel, desbirulada per trian, se l'è struisada cœur la vegiana. Pe, gendà il canker al cu. In cucina, là, de notte, con ste cerchet, bicerrot, piattaciap, el cu, là, a farussia con ti cugnum, mata, povera minin, pe, me ven contra il bianchin, se viaggia, fogum, fogum, trusciun a finì la fera, mager con quel suo facin fusc, quel stomaco cadin che par sempre che gli dura un filaper. Pe, gene anche mo un'altra metuda, nuova, e quistin chi che in muda specien, se sono cos'è. Ah, Ruston, per recordala basta a mi che me deseda e cui so bocul la veda e cui so vestali in gala statua su una poltrona. L'el solet queschi, la sua stanza questa, e l'è la tua mamma. Va, va, va, povera donna, morta e viva a quella cruz, quan la sona, quan la chiama, quan l'urdena. L'è la mamma, te la sentet, testa e vus, tuc de lè per l'imbecada, lè che dan per scriv la pena, e di volt peu, se lei invena, e se i tram balchen in strada, lei la sent Londra, Toulouse, fin l'America la radio. Viva e morta, me l'imbuchen, e la vusa, se la tuchen. Ah, la vusa, la martira, che la mort, straca padron, la gatrà il cabi, ruston, e la tira. E la tira. Questi in chi, come tu dit, che se rusen, chi che suda, giusche che sem con sta metuda, mo, vuoi scundum un petit, ti rigio dal spassacà, per francat mei la resun, cunt un alter paragon, e il più ranch di calancà, la gussona, per esempi. Quella povera vegeta, che una missa fa spaseta, la patì più ranca, un scempi se ne fa, quella matoca sturbaluna della vegia. Per rivà tragiò la segia, prima surda, porca loca, surda pes della bucad verga, i di che piev, e in fund orba, crincio, desconfund la livrieta con telgat. Corno acustic, lavativ, peruchina, cai, dentera, cinterniari e una filera de quaresen maladiv. Quanti? Boh, quei consulina come sui 90. In tanti, la diceva, e tiri avanti. Se cammina, ingrugnada in chi so quater busegater de stanset. Intra una poltrona e let, la sua donna è quel teater d'un mostrin. La sua gatascia, di per di, verde, l'andava l'anca mo, la carucciava dura in ura, poverascia. Fin tant che, te regordet, le sta il 7 maggio del dudes, no, del vundes, o del dudes, de mattina, te regordet, in sul prim su, burla dent, che desgarbiada, Jesus, ponf, la margherita, lus, che venì un culp d'accident alla sciura Antunieta. Eh? Cos'è? Me padre feu. Salta feu del lette peu. Vegni, vegni! La calzetta, trovi minga la calzetta! Clara, vegni, vegni! Oh! Un Sara, Sara. La madit, la portinara, de cur subit. Vegni, peta! I mi dant! Clara, i mi dant, vieni mi dant! E mi cur dal padre Felisari. Brunchelli in confessionari, cascia il su, cur del dutur, orba, surda, muta, morta, puerascia, per metà la ghisona, l'era là, sotto i dubi, abbat la porta, un champin sura i fudret la raspava, la palpava, due sun, la farfiava, due sun, in del soletta, ca sua, e quel champin che raspava sui fudret, la mia mamma che le met per quietala sul cusin, lì, sui cifer. Lei è tuca, la sensota, la A e il G. E la rid, ah, la capì, e la rid, sturgen la buca. Che vuol de rent, e dunca come vala, ben? Fu. No, la scondisse il cu, la me guarda, la me bronca una man, roba de poco, uff, le niente, il passa, no, la dis de no, la piassa, la mastega, la fa moc. Moc de Dio. Per dirsi un qualcos, ma non la può più parlà. L'è inutile, no. La fa sen che la può più. La può più l'assassinata, chi in la lingua, più parlà, più. La volta il cu in là e la fa giò una luciada. Ma segura, senti gat, chi la notte due me fugni cui me cart e pensi e sogni, chi l'è il sit classic di gat. Miau, miau, miau, parla in de sud via. Che stremisi che te ciapet a sentì, ruston te scapet. Miau, miau, là, come in Umbria. Che sconcert, che sinfonia. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Dal perari, sciunfeta. A quell'urinari. Miau, miau. Che geriva via, filen come di saet, ari, bof dari, noturni, rugabella, le suturni, come il nostro giardinet e respira. Chi? Chi l'è? Murist, là, murist. Per i Turin, chi là? Va, va, quel lamentin trist, la scighetta, murist, le fantastic, le decrepet, de fac balai tavolite silenzi, chi rubit d'or che il gadenter, che strepet all'improvvisa, chi l'è? Nessun l'è. Chi rubit d'or del silenzi, chi puntit slusen, e cosa genè? Sita, gendenda de la vede. Sita giò, che ades in del curidur del ces, mo te sente no, de là. Come un certo strusamento de pe. Sita, pedan, mut, ghe. Madonna, aiut, aiut! Che mi rivendent, ghe gent, gent, te disi, chi per chi che trafugna, che pedona, la gussona, come allora, son ben mi. Placa d'ora del segrista, vesta russa, una duneta, dalla piazza alla lupeta una tonega che in vista. E il viatic sul cumò. Tut mi vedi come l'ura, che una tuvaieta è sura, che du candilè, che giò una specie di altarin, che in quel scatolin redund le riva al padron del mund. Vale in Cristo. Puvarin, due il posten se il vaspas. Le riva la democratica. Pax hominibus. La tattica già le quella de adatas. Quanto al papa, quanto al Schuster vanno in macchina, ma lui? De hoc mundo. Mel fansin de scatulin del luster. Odi in loco tuo. El dis. Siti in pace. E l'è finita, la gussona l'è servita, e de ram e de radis. Ari, ari, nivulari, che va te a qual tesin, ven notturno, lamentin de scighetta, dal perari. Tanti in vita se lavora per redursi in fin con questa, che chi faccia furesta. La gussona al bad dell'ura le passate in agonia, come un film le la memoria, tende fiura le la storia di quan l'era. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus. Fera via, non te par fus che la guarda, le trescur, casa suarda, l'el dutur. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Lassù, Bergum Alta, Cadaniona, chi pevesse quella persona? Là. E il dottor Albert, l'elu, che buchin de sucher, va. L'ha messa indurmenta via. Derva, derva! Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta. El fia, c'ha l'ussigen, su, la porta, la Virginia. Oh, no, no, no, chi l'è? La Luisa, ma com'è? Se gandit che l'era morta, la che fa vedere un mantin, quella mata, quella stria e la tenta. Via, via, via, destrusala, col mantin, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Stiti chesa, e il trebulere de chi so 49 di, filà, senza falluf. Oh, più ne oli, né clisteri, né nuven, imbutegliada. Ma sull'ultem, a un millesim, desciupà, sul cinquantesim, pram, l'endada, cula scossa elettrica. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui, mulieribus. Pe ghe un'ombra che vengiò, orba, surda, in quella ca. Cosa che resta de fa, un quei dun la ganca mode truvà. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Quei dun che la cerca intorno via. Ah, Lelè, Lelè, la mia mamma, è il suo segno. Nun, duma nun, la fa come sen deves la sada sola. Nun, con le. Una parola, una riga. Devure tiras su. La verandà. E la tenta de tragiò i gamb. No, no, no, no, no, no, quieta, gio, tenila. Che la va, uè, tenila. Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Subet, subet. Chi una man? Virginia, c'hai, sopan, vardi. Ti là, su, ten su. Ma seghe lì pronti scos. Minga questi chi, no, l'alter sutanin. La sataia, un tamponin de bombas. Fumì, fumì. I candil che la porta il domenic. Dac vinghei, le a sé, vinghei, vinghei, per quel che la fa. Sempre il gatto in dipe, morsh, via! Sare su in la linghera. Tire ferra la dentera, che un quei cos la varan calè. Ciao, un gud d'acqua. Troppa, troppa! E permette che sotto adesso vato il assa de supress. Se de no, la fa la fopa. Ah, che sem, e sobre l'oc d'oro al col e la corona. Greta Garbo, Colin Moore, Vilma Blanchi, Ruth Taylor, questa chi buca tirenta dal tignun las alla gepa, questa chi le laghisona morta. Gloria Swanson, Bessie Love, Billy Dove, Lily Page. Aria, aria farfalette della Metro, della Fox, della Paramount. Aria, aria, Paradis 1930. Se si fega in la lupeta. Aria, aria! De quel mat che son un vul, pensi, un vul de farfalet, de cicit, a curuneta intorno al let, de la sciura Antonietta, morta.